America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Alle 9:15, ora di New York, una violentissima esplosione ha squarciato almeno 6 piani del World Trade Center. I due grattacieli gemelli nel downtown New York, dove già alcuni anni fa il terrorismo islamico fece esplodere una bomba. Si vedono già 6 o 7 piani interamente squarciati e nuvole di fumo che stanno uscendo dal grattacielo. Un altro spicchio di quella giornata tragica, drammatica, e abbiamo con noi ai microfoni America 24 Giuseppe Cruciani, che ha seguito in diretta quel giorno quel che succedeva. Giuseppe, buongiorno. Ciao Mario, buongiorno a tutti. Cosa ricordi? Dove eri tu quando c'è stato quel preciso momento in cui c'è stato l'attacco? Quando l'hai saputo? Eri già alla radio? Dove eri? Guarda, ero a pranzo giù nel bar sotto la radio. Sono risalito e ho visto una grande mobilitazione, c'era un collega che si chiama Gigi Donelli in diretta, io ho fatto la diretta successiva, alla radio nelle ore successive ci siamo alternati, e da lì è stato un lungo susseguirsi di dirette. E poi ti racconto una cosa che è professionalmente abbastanza sfortunata come cosa, perché il direttore all'epoca di Radio 24, che all'epoca era Lia Zamboni, mi chiese di partire subito. Io però, per un motivo o per l'altro, non avevo i documenti, non avevo il passaporto pronto perché mi era scaduto da poco, e dunque persi questa grande occasione professionale di andare negli Stati Uniti. Poi era complicato, ti ricordo, in quei giorni anche polare sugli Stati Uniti. Molti colleghi che vennero immediatamente poi furono bloccati in Canada, non riuscivano a entrare, e allora ci furono alcuni episodi, diciamo così, un po' discutibili di pezzi fatti dal Canada ma datati in presa diretta dalle due torri. Ecco, tornando a quella giornata, se tu devi ripensare a quello che sentivi vedendo le cose dall'Italia e in quella diretta, quali sono le due o tre cose che ti hanno colpito di più? Beh, come dici tu, soprattutto la grande confusione, la giornata convulsa in cui si capiva molto poco. Si cercava di prendere notizie qua e là, ma in cui ancora i contorni di quella vicenda erano molto vaghi. Era una giornata in cui comunque si era cominciato a sviluppare un qualcosa che dopo sparì, cioè la grande solidarietà nei confronti degli Stati Uniti d'America, una solidarietà che durò in realtà molto poco, durò 2 o 3 mesi, poi sappiamo che questa solidarietà è poi svanita, ci fu una guerra in Afghanistan, successivamente quella in Iraq. Ecco, soprattutto si mise in moto quel grande senso di solidarietà che fu una cosa grandissima nei giorni seguenti, nei mesi seguenti. Di quella giornata ricordo francamente molto poco. Ricordo che ero impegnato a seguire una diretta radiofonica molto convulsa, in cui si accavallavano le voci, in cui non era facile capire chi poteva darti un minimo di analisi, al di là poi della cronaca e al di là della questione di morte. Ecco, tu hai detto che c'è stata questa grande solidarietà con gli Stati Uniti d'America che poi è svanita. Oggi l'America da molti è percepita come ancora in difficoltà, anzi difficoltà ancora peggiori sotto molti punti di vista, problemi di disavanzo pubblico, ha problemi di due guerre che devono chiudere e non riescono a chiudere, problemi di promesse del presidente Barack Obama che voleva chiudere Guantanamo, poi si è accorto che non poteva, c'erano proprio delle implicazioni tecniche per cui non si poteva chiudere nonostante le promesse elettorali. Ecco, si parla di declino dell'America, tu lo senti questo declino o no? Ma visto da qua e da chi si occupa quotidianamente di politica italiana, di miserie che offre la politica italiana, francamente no. Poi magari i dati sono diversi e le questioni geopolitiche sono diverse, certamente la Cina da una parte, altri paesi dall'altra sicuramente minacciano lo strapotere degli Stati Uniti anche dal punto di vista commerciale, però insomma, visto da chi ha ogni giorno si occupa di politica italiana, certamente no. Secondo te tutto deriva alla fine, tutte queste difficoltà in cui ci si trova oggi, proprio da quell'attacco? Ma in parte sì, in parte no, credo che poi alla fine, certamente nella questione del disavanzo pubblico non c'è dubbio. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Osama bin Laden, proprio nel 10° anniversario, è stato ucciso. Ci sono state molte polemiche perché non l'hanno catturato, un sacco di dietrologie. Ho parlato con Lucio Caputo, che è uno degli italiani sopravvissuti all'attacco, perché erano le due torri, e lui ha detto... Beh, ovviamente c'è stata una grandissima soddisfazione perché Osama bin Laden per me era un nemico personale. Lui mi aveva danneggiato in tante cose e ha creato un evento così drammatico. Quindi per me il fatto che si sia fatta giustizia è stato un fatto estremamente positivo e do merito al Presidente degli Stati Uniti per aver perseguito questo scopo e averlo raggiunto. Tanta gente si dice: ma non sarebbe stato giusto che lui fosse stato processato? E io dico no, perché lui, nel fare quell'attacco vigliacco, codardo, assurdo contro gente innocente che non aveva niente contro di lui, è uscito dai limiti della società civile. E uno che esce dalla società civile, come hanno fatto, ha fatto lui e i suoi accoliti, non può chiedere il rispetto delle regole della società civile. Giuseppe, tu cosa pensi? Cosa c'è di meglio di questo senso di soddisfazione di un superstite delle Torri Gemelle? È la voce che vogliamo sentire in questo caso, almeno io che mi occupo di radiofonia, io che mi occupo di sensazioni, anche di passioni, se vuoi, oltre che di analisi politica italiana, a me piacciono soprattutto queste cose. Non ti so dire cosa penso di Bin Laden, questi sono discorsi di cui non mi occupo. Io credo che quando si poteva catturare è stato catturato, cioè, non credo a tutta questa dietrologia del momento giusto per catturarlo, non si voleva catturare prima, eccetera, eccetera. Credo invece a grandi protezioni che ha avuto, e mi piace sentire la voce della soddisfazione di uno dei superstiti delle Torri Gemelle. Giuseppe, tu hai studiato De Tocqueville, che è il grande teorico della democrazia americana, in qualche modo ce l'ha insegnata anche noi un po' in Europa. Ecco, se tu pensi a questo momento degli Stati Uniti, di nuovo, visto da là, visto dall'Italia, perché poi le percezioni sono importanti, non è soltanto quello che uno vive in presa diretta, e guardi al futuro, ci sono due guerre che sembra che stiano per finire, ci sono grosse difficoltà, delle elezioni in arrivo, baruffe di ogni genere. Ecco, il messaggio originale di De Tocqueville, lo continui a leggere nell'America di oggi? O no? Ma sì, perché nonostante tutto, caro Mario, tu lo puoi verificare ogni giorno, alla fine le difficoltà ci sono, perché la democrazia non è perfetta, e lo stesso De Tocqueville non pensava alla perfezione di un sistema politico. Dunque lo vedo ancora realizzarsi, lo vedo ancora dipanarsi, certamente, nonostante momenti di difficoltà, è comunque momenti che ci sono sempre in una democrazia. Una democrazia ci sono, come quella americana, una democrazia in fondo liberale, ci sarà sempre una grande differenza nei redditi, ci saranno politiche più liberali o meno liberali a seconda di chi vince, a seconda del periodo storico. Insomma, lo vedo ancora ben presente questo sogno, come no. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter, 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Sempre in ricorrenza 11 settembre, decimo anniversario dei Black Eyed Peas. Where is the love? New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.